Radio 24 Reportage. Ritorno all'Aquila 5 anni dopo il terremoto. Tra ricostruzione e speranza, di Raffaella Calandra. Cinque anni dopo, l'eco risponde ancora nel centro storico paralizzato, ma i rumori dei primi lavori finalmente spezzano il lungo sonno dell'Aquila. Sparsi tra reti di ponteggi e porte sbarrate, 101 cantieri da poco aperti sull'asse centrale ridanno alla città, sfregiata dal terremoto che uccise 309 persone, una prima speranza e una prospettiva. La prospettiva di avere almeno questa arteria principale di nuovo rianimata di famiglie e negozi entro il 2017. Prende questo impegno il sindaco Massimo Cialente in occasione del 5° anniversario del sisma che lascia ancora fuori casa però 23.900 persone. Ora i lavori qua e là sono partiti e camminando tra muri di puntelli e barriere di impalcature si sentono trapani, sferragliare di tubi e a questi rumori è appesa la speranza dell'Aquila. A giugno però i soldi saranno di nuovo finiti e servono altri 700 milioni per quest'anno e 1 miliardo per il 2015, calcola il primo cittadino Cialente. Se arrivano i 700 milioni, io ritengo che per la fine del 2016, massimo primavera del 2017, gran parte dell'asse centrale, il cuore della città, sarà completamente terminato. Dall'inizio del 1° gennaio dello scorso anno, 2013, al febbraio quest'anno, abbiamo licenziato progetti per 1.443 milioni. Rispetto alla previsione iniziale dei 7 miliardi e 88 milioni per la ricostruzione dell'intera città privata. Se continua questo trend potremmo anche arrivare ad aver risparmiato un miliardo e mezzo. Cifre con cui la bella addormentata spera di svegliarsi dal lungo coma in cui è precipitata alle 3:32 del 6 aprile 2009. I cantieri aperti, quelli pochi già chiusi e quelli in stato di assegnazione sono questi ora i valori vitali dell'Aquila monitorati costantemente come un malato speciale nell'ufficio speciale ricostruzione. È qui, in questa palazzina poco lontana dal centro, il cuore pulsante della città. Le carte catastali appese alle pareti indicano l'avanzata delle nuove gru, puntini verdi di speranza su ampie praterie grigie, isolati fermi cioè ancora a quella notte. Che punto è il progetto di cui si sta occupando? Non hanno ancora preso in considerazione la pratica. In fila, questa signora fa fatica a credere che il futuro stia davvero nelle sue mani, come recita un manifesto appeso dietro ad una scrivania. Piuttosto il futuro sembra stare nel numero della pratica nella graduatoria per la casa, una di quelle presentate nel lontano 2010, una delle 4.500 esaminate in queste stanze a prodo della rabbia degli aquilani, mitigata solo dall'avvio faticoso dei nuovi cantieri segnalati nelle nuove cartine appese con lo stato di avanzamento. E lì Paolo Aielli, inviato nel 2013 dal governo per guidare questo ufficio speciale in ricostruzione, legge in un certo senso il futuro della città e i costi. Questo terremoto costerà tra i 17 e i 18 miliardi. Noi stiamo ricostruendo e facendo per la prima volta anche tutte le reti tecnologiche. Saranno gestite da un unico sistema infrastrutturale, penso sia un caso unico in Italia. L'anomalia è che noi appunto nell'aprile 2013 abbiamo ricevuto 3.000 progetti vecchi, arretrati. La ricostruzione ora forse è davvero partita anche nel centro della città. Le impalcature abbinghiano cupole e facciate, le gru solcano il cielo nel difficile calcolo di non disturbarsi a vicenda, ma poi basta fare pochi passi di lato, basta spostare alcune delle transenne che ancora chiudono la zona rossa per sprofondare nel silenzio. Un silenzio dove i passi fanno rumore e il cinguettio degli uccelli è l'unica voce viva tra porte sbarrate e squarci rimasti aperti sugli interni di case distrutte. Una dispensa a cui nessuno più attinge è ancora piena di biscotti e latte. Un lampadario con i suoi cristalli pende intatto da un soffitto interrotto. Arriva amplificato tutto questo silenzio, anche nelle strade dove ora qualche commerciante fissata l'insegna sui ponteggi ha deciso di riaprire lì in centro, come Peppe Colaneri, titolare della Luna. Un atto di pazzia, abbiamo riaperto con l'agibilità parziale. Per me il centro storico è il mio cuore. Io sono nato all'Aquila, in centro storico, ho vissuto in centro storico, ho aperto tutte le mie attività. Utilizza ora i ponteggi come posto per appoggiare la merce. Mettere la merce, sì. I suoi colleghi che avevano negozi qui in centro storico? Alcuni che erano un po' più vecchi, che stavano qui, non hanno avuto il passaggio con i figli, hanno chiuso completamente, ne sono tanti. Altri hanno trovato diverse locazioni in centri commerciali, vicino qua al cimitero, ai tipo Globo, Leclerc, all'Aquilone. Però molti hanno chiuso, lei diceva. Sì, molti hanno chiuso. O alcuni, fra l'altro, si sono trasferiti fuori e non hanno più riaperto qui. Subito dopo il terremoto aveva riaperto, anche grazie ad un finanziamento Etimos, il Gran Caffè dell'Aquila, punto di ritrovo, anche se lontano dalla storica sede di Piazza Duomo. Ma ora in realtà è a Filadelfia, negli Stati Uniti, che il suo titolare, Michele Morelli, sta per trasferire il suo gelato, con una coda di polemica verso i suoi concittadini. L'Aquila era Piazza Duomo, era i portici, era Corso Vittorio Emanuele, era il centro. Eravamo il punto di riferimento della città e lo siamo stati e lo siamo ancora oggi. Chiaramente ci sono tantissime difficoltà perché innanzitutto mancano gli aquilani, manca tanta gente che se n'è andata. L'idea era quella di tornare in piazza, però purtroppo poi non è stato possibile perché siamo ancora a carissimo amico, come si dice qui da noi. Di anni ce ne vorranno molti di più. E solo la domenica forse c'è un po' più di passaggio. Forse solo la domenica, ma poi noi ci mettiamo anche del nostro, ecco qui il male degli aquilani. Qualche palazzo che ha già finito i lavori, perché devo dire che molti aggregati sono partiti, stanno riaffittando. Andate a chiedere a quanto stanno riaffittando. Cioè, dei prezzi che secondo me neanche a Piazza Spagna a Roma ci sono. Parliamo di 30, 40, 50 euro al metro quadrato, vergognoso. Quindi ci stupiamo della gente che ha riso in Toscana, imprenditori lì che quando hanno riso si sfregavano le mani la notte del terremoto, quelli fanno imprenditori. Lì hanno sbagliato, ma i primi sciacalli siamo noi aquilani. Perché in qualche modo si sta, dice, speculando sulla ricostruzione e questo allontana la ripresa della vita della città. Stiamo speculando sulla ricostruzione. Io abitavo di fronte in quel vicolo lì che vede, avevo una camera, una cucina dignitosissima, erano 45 metri quadrati ed un bagno enorme. Io pagavo 300 euro. Piazza Duomo, dove sono io adesso, praticamente in una zona pessima, bruttissima, una mansarda di 42 metri sta 650 euro. Quindi chi sono gli sciacalli? Cioè, siamo noi aquilani, quindi. E l'Aquila così non ripartirà mai. Sono già 1600 gli abitanti che l'Aquila ha perso nei 5 anni dal terremoto, spinti dalla mancanza di case, per molti anche di lavoro e soprattutto dall'assenza di prospettiva. 43.000 persone, secondo i dati del governo, sono tornati nelle loro case, ma più di 20.000 sono ancora assistiti nelle cosiddette casette di Berlusconi, come sono state ribattezzate da tutti qui, o nei MAP, i moduli abitativi provvisori, la cui natura l'hanno mostrata tutta nelle infiltrazioni di pioggia e nei problemi di manutenzione volta per volta comparsi e diventati un buco per il bilancio del comune, che deve fare i conti anche con le proteste degli inquilini. Ma è soprattutto la perdita di una rete sociale, la mancanza di comunità che la gente dell'Aquila, deportata nei vari quartieri dormitorio lontani chilometri dal centro, lamenta di più. L'acqua dentro la casa, dentro, dalle pareti che gli scende l'acqua. Nei MAP l'hanno dovuto chiudere, hanno dovuto sfrattare tutti quanti perché non si poteva più vivere. Vivo in un MAP. In una delle case più difficili? Eh sì, purtroppo non sono di alta qualità, quindi si rovinano col tempo. Ci piove dentro in alcuni casi? Sì, in alcuni casi sì. Qui a Bazzano o più avanti nei vari insediamenti, senza auto si resta prigionieri del silenzio. E la strada per ricomporre il senso di comunità, distrutta come i muri della città, passa anche attraverso la restituzione all'Aquila dei suoi luoghi simbolo, come il Forte Spagnolo o le tante importanti basiliche del centro storico. Guarda gli operai, finalmente in azione sulla facciata della Chiesa delle Anime Sante, e poi Fabrizio Magani, direttore dei beni culturali dell'Abruzzo, torna alle sue carte. Perché è lì, in quei numeri, la possibilità di restituire al capoluogo abruzzese i suoi simboli d'arte, nei numeri che dicono che serve 500 milioni almeno per restaurare 485 monumenti in 9 anni, e con un'Italia in crisi e 24.000 persone ancora senza casa nella città terremotata, il rischio che qualche antico portone resti sbarrato per sempre esiste davvero. È per questo che, anche se ora partono i lavori del teatro comunale, la prudenza domina nelle valutazioni del direttore.